cospetto, cospetto, e poi cospetto. Ma chi è cagion di ciò se tu non sei tu in stilo dormio? Con chi parlate? Sono donna d'onor, voi siete il pazzo. Onestamente voglio trattar con chi mi piace. Se questo a voi dispiace, da voi me ne anderò con la mia donna.